together, smoke a freedom again. We smoke a freedom again. We smoke a freedom again. We smoke a freedom again. Smoke a freedom again. Smoke a freedom again. Smoke a freedom again. Yes, smoke a freedom again. Smoke a freedom again. We smoke a freedom again. Smoke a freedom again. Si è rotto il cazzo di una city che non dà spazio a chi ha bisogno di cambiare la realtà. Non han capito che sta solo nella testa e non puoi vendere a una festa questa creatività. Telecamere puntate, porte telematiche, multe moltiplicate, infilate tra le tue natiche, locali in centro chiusi, gente sulle scale a fare bozze ma mascate per paura dei mafiosi. Charlie sul beat, Link Up alza lo stereo, Ninja che arriva perché papà sta rollando un veliero. Se questa city è così mi fa scattare lo sclero, se questa è l'ora di rivolta allora che lo sia davvero. Piclic, sputa merda sopra la Firenze chic, porta fuoco sulla Rizza e sul beat, faculizza chi ce lo strumentalizza, memorizza che più o meno fa così. Try to survive now the CTO, the one as hell, the soul of the CTO, my people are ready for the revolution world, Riviera rock on, burn up your radio. Try to survive now the CTO, we gonna save the soul of the CTO, my people are ready for the revolution world, Riviera rock on. Your radio, sono radio. In vetrina, ti riprendo, non calcesso. Benvenuti qua a Firenze, nella city dell'eccesso. Ti piace Santa Croce, Battistere e pure il Duomo? O vivici qua dentro che ti cambia tutto il resto? Di morte americane, localini per ballare. Zero posto per parcheggio e vicinini da infamare. Primiera c'ha lo stile, quello fresco e fa casino. Benvenuti nella city di Bischero Fiorentino. Firenze come vittima, una terra di conquista. Gli spazi non abbondano se resti un vero artista. La gente qua è cresciuta, adesso è pronta per combattere. Firenze c'ha le storie, resta solo raccontarle. Firenze guarda indietro e scopre chi ha di fronte. Firenze guarda avanti e non ha visto il suo presente. Firenze in questi giorni riesce a vivere coi forse. Primiera con le rime vale più delle risposte. Try to survive now the CTO, the one as hell, the soul of the CTO, my people are ready for the revolution world, Primiera rock on, burn up your radio. Try to survive now the CTO, we gonna save the soul of the CTO, my people are ready for the revolution world, rock on, burn up your radio. Jackson gira un altro film che mi faccio sul degrado che dilaga e rende tutto più marcio. Le persone non lo sanno ma respirano il cancro. Siamo senza difese e si ci attaccano in branco. Stacco la spina alla telecomunicazione. Non vuole essere una guida ma soltanto un'istruzione. C'ho 24 anni quindi mi educo da solo. Non mi serve una lezione di vita ma un posto di lavoro, mo. Dacci più spazi, l'arte e la cultura nei locali. Per me vanno supportate a seconda degli ideali. Per le perdite dei club non basta il linea e seta ali. Se ne conta su una mano, per la musica che porto sono morto già dal parto. Puoi trovare il rap sotto una lapide di marmo. Fumo l'erba grassa qui nella città di Boboli. Firenze tira merda e tu copriti, copriti. Try to survive now the CTO, the one as hell, the soul of the CTO, my people are ready for the revolution world, Riviera rock on, burn up your radio. Try to survive now the CTO, we gonna save the soul of the CTO, my people are ready for the revolution world, Riviera rock on, burn up your radio. Stanno più a loro agio i cani randagi. Regala un cazzo Firenze, manco se becchi re magi. Andateci ad agio con desti plagi. Non fanno altro che aumentare disagio e darci più tragi che magi. La city non procede, si vede sempre più vetrine per l'inglese e il cinese. Quando passo sguardo della gente si schioda. Le uscite in piazza sono sfilate di moda. Beccati la city degli automi normali, che è tutto grigio ma se vedi i colori li scrivo nei miei diari. Martedì, giovedì, venerdì ma sempre più uguali. A bere gli amari ed aumentare i salari dei che Bari. Se c'è qualcosa che rende queste giornate piene, il rapporto d'amore ed odio perché Firenze contiene amore, musica e broda ed insieme le mie pene. Questa voglia di cambiare il volto delle iene. Quindi try to survive now the CTO, the one as hell, the soul of the CTO, my people are ready for the revolution world, Riviera rock on, burn up your radio. Try to survive now the CTO, we gonna save the soul of the CTO, my people are ready for the revolution world, Riviera rock on, burn up your radio. Mamma non dai con mi dolore.